se non ci credo, anche se non ci credo. Io spero che tu domani cambierai. Un giorno mi dici che non sai se vuoi. Qui invece dici che devi uscire coi tuoi. Non devi mai un'ora tutta per me. Ed io non so mai arrendermi perché amore, anche se non ci credo, anche se non ci credo, io spero che tu domani cambierai. Il tempo non ti ha cambiata, sì lo so, ed io continuo a chiedermi perché. Accetto tutto ciò che dici a me, ma un giorno di questi anch'io mi stancherò. Ma poi sai, anche se non ci credo, anche se non ci credo, io spero che tu domani cambierai. Io spero che tu domani cambierai.